Hola, attenzione, binario 10, cambio. Hola, attenzione, binario 10, cambio. Cambio. Avanti. Chi è? Ehi, chi sei? No, negativo, in barra mobile. In barra mobile. Chi sei? Non ho capito. Ma chi sei? Marino. Sono nella strada di Osi, lo dai. KK, ti ascolto al 100%, dai. E io come ti arrivo in quella zona, con l'antennino? K, ma tu stai uscendo con un coso, con un dipolo, sei basso di radio, però già ti ascolto. E anche, sei anche basso come segnale, ti tiro fuori a malapena io, dai. Ciao, ciao, non so chi ci sia, avanti se c'è qualcuno sul 10. Attenzione, binario 10, cambio... Ora attenzione, canale 10, cambio CQ10. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Attenzione, binario 10, cambio. Avanti, eia. Ciao, meglio di prima adesso. No, vai meglio, di radio vai meglio. Di segnale uguale, ma la radio è aumentata. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ora. Attenzione, binario 10, cambio. Ciao, avanti già. Facendo roba a casa, mi dispiace. Sì, vabbè, dai, no, già lo so che la domenica si ha sempre da fare, non c'è problema. Se mi mandavi un colpo di telefono già non c'era problema. Aspetta un attimino che c'è il cellulare che mi sta scullando e sono in macchina, sto camminando. Vai, vai. Antonio! Hola, hola, hola, hola. Sì, ti sento, Anto. Guarda, sto facendo una prova. Guardami il segnale giusto adesso, quando ti sto arrivando. Ma sta che ti ne pare, a fondo scala, sì. Quindi non fa nemmeno a fare confronti. Andave. Non c'è bisogno manco di attaccare con te. Capo, ma dove sei? Vicino a casa. Cavolo, sei 9 più 30, sì. Magari se attino un po' ti sento diversamente, ma sei 9 e 30. Copo, copo. Io sono coi batti dell'apparecchio. Oggi abbiamo fatto la prova. Che fai? Prova col portatile, gli ho messo le batterie già. Vai. Aspetta un attimo. Già. Laggiù un buccio di batterie, ho fatto parlare a Sara da casa. Cazzo, ci sono scesi al mercato lì. Una bomba. Ora? Accanto 10? Sì, ya. E bene tu? Beh, buonasera. Buonanotte. Sì, ya. Cappa. Esci a vedere se mi intendi pure tu. Facciamo la prova. Cioè? Sì, chi sei? E dove sei? Sì, Santiago 7, quasi 8, sì, radio 3-4. E a voi l'avete ascolto? E mi, abbiamo fatto la prova poco fa con Sara, con la mia compagna, a vedere quanto mi sentiva. E quanto arrivo forte, non pensavo, sono sceso lì a zona del mercato o cosa. A pompo io. Lo so anche io, la prima volta che ho acceso la radio, il baracchino, avevo uno di questi portatilini in gomma, con l'antenna in gomma, e mi ha sentito Luca, il primo che è stato nel 2004 è stato Luca, con l'antenna in gomma ho fatto break e mi ha risposto, avanti il break, cazzo. Che portatile c'hai? Un coso, Intec Endicom, come si chiama? Endicom 40 canali, è quello che ci vede, non so, non ha smitter, della Intec, Endicom 40S mi sembra che si chiama. Scappa, no, adesso sono buoni già. E già pompa, adesso gli ho messo le batterie, gli ho messo le stilo alcaline, le tech, quelle un po' più forti. Tanto c'è pompa, sono andato sopra, mi sentiva sempre. Ma che portatile? Intec 520 Flux, c'ha tutti i canali. Ma c'è anche lo smitter? Sì. No, il mio non è di smitter, c'è solo il coso, il canale in giallo, appare 40 canali, poi potenza alta e potenza bassa, 1 watt, 3 watt, 4 watt, dai. Però se metti la batteria in 5 minuti te la mangia. Io quando lo usavo l'attaccavo con l'alimentatore esterno. Ma guarda, c'è anche il cavo particolare, c'è il cavo che fa PL e quindi sigarette. Fate anche questo, ma poi si può smontare nel tuo l'antenna? Certo che si può smontare. E allora puoi attaccare anche l'antenna, se vuoi fare la prova, fai l'antenna, prova ad attaccare l'antenna tua. Aspetta un attimo, no, c'ho proprio il pezzo adatto, aspetta che l'attacco. E io? Stavo dicendo Roberto, c'ho proprio il pezzo adatto, aspetta che l'attacco. E ho capito, dai. Ora, sentore 10, c'è qualcuno? Ci sono, ma sono al telefono, Robe, un attimo. E io? Ho quasi fatto, E io? Vediamo se oltre a Gianni al telefono, a te, a tu, vediamo se c'è qualcun altro che vuole entrare sul canale 10, avanti, con la buona giornata. Robe! Parla. 1, 2. Aspetta che è tutto strappato, prova. Hola. Perché stanno da culo? Fa un passaggio lungo. Perché le batterie non tenevano. Adesso ho attaccato il coso. Com'è? Una bomba, tanto. La voce è bellissima, bella chiara e pulita. Cappa, ma se attacco questo, attacco un'antenna grande non va bene. Devo per forza usare... Cambiami, capito? Oddio, ma questo è il portatile? Sì, yeah, il portatile. Ecco l'antenna grande, se però. Sì, sono con l'antenna grande. No, va bene, la radio è bellissima. Pure meglio dell'altra, tu. Sì, lo so, quell'altra è bruttosa. No, questa è chiara, pulita e anche forte. E la mia com'è, Roberto Quadrato? Com'è la mia radio? Cambi... Chi è questo che sta parlando, che sembra parlato da un'oltretomba? Gianni, Già lo so, Giubilendigi, è bella, no, già è chiara anche la tua. Guarda quando ti arrivo di segnale, roba lì. Quasi 9:20, dove sei? Sotto a casa sono, in macchina. Ah, ma c'è gente, è stato brutto. No, non c'è gente, sono solo in macchina, ci sono solo due che stanno cambiando la ruota alla macchina. Ma sicuramente mi verranno a chiedere la chiave a croce. Eia, no, tanto è bella, veramente bella la radio, perché sono portatile, è molto chiara e pulita. Eia, K, com'è il segnale? Il segnale c'è quasi 9:20. Già, vabbè, pochi watt, non è che sia questa cosa. Cambio. Avete parlato in due, non si è compreso nulla. Cosa hai detto, Antu? Ho detto pochi watt. Ma sta andando bene, sei quasi 9:20, quei picchi arrivi a 9:20. Cosa hai detto già tu? Guarda adesso il segnale come ti arrivo. Stai il segnale d'Antonio, quasi 9:20. Cava. E invece così, guarda così, quanto ti arrivo? Niente, riprova a fare due passaggi, non ho notato differenza. Guarda così. Oppure così, guarda. Già, non ho notato differenza. Cioè, fallo più piano il passaggio, mi dici questo è uno, e schiacci, e poi mi fai l'altro, hai fatto troppo veloce. Questo qua è uno, due, tre, adesso metto l'altro, guarda, uno, due, tre. Non cambia niente qua. C'è qualcuno sotto, avanti che vuole entrare. Tu sei alto. Ma adesso sei basso, sei Santiago 7, però la radio è molto bassa, non ti capisco quasi. Robè, ma che apparecchio stai usando? Sì, grande. E non cambia nulla, ma sei sicuro? No, forse i picchi cambiano già, non noto differenza io. Cazzo, se in un passaggio sono con 10 watt e nell'altro con 100 non cambia nulla. Allora, tu non parlare, mi dici questo è il primo passaggio, dai 2 secondi di bianco, e mi dici questo è il primo passaggio, fammi la potenza minima prima, mi dici questo è il primo passaggio, e schiacci senza parlare, e poi dici questo è il secondo passaggio, altri 3 o 4 secondi e vediamo. Hola. Aspetta tu, questo è il primo, guarda, questo qua è il primo. E questo è il secondo, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allora. allora già, se aumenta, aumenta di pochissimo. Con la modulazione sì che aumenta, i picchi sono un po' più forti, però come segnale riportante sono quasi uguali, qualche peluzzino un po' di più si sente. Adesso faccio un'altra prova. Questo è il primo passaggio, e questo è il secondo. Già, pochissimo, proprio una cosa impercettibile. Ne ho capito. Sei quasi 9 più 20 con uno e l'altro 9, quasi 9 più 20, sei proprio una cosa minima. Ok, altro vai tu. K, scommetto che sono aumentato, no? Adesso sei 9 più 25 e tu. Quei guardi della radio sono, Ma cosa, come ti arrivo invece di lì con quella radio? Sei guarda a fondo scala. Come a fondo scala? Era un grido io. Tu sei quasi a fondo scala. Lei magari un po' generosino è quello Smith, dai. No, fidati, guarda. Ti attenuo pure. Fidati di quello che sto dicendo qua. Attenuato, proviamo, va. Ora, canale 10, 27075. Attenuato, lo sai quanto mi arrivi? Cioè, ti puoi immaginare, sei quasi 9, cioè, non è quasi, sei 9 attenuato. Quindi non penso che sia tanto generoso. Ehi, vabbè, dai, ti ascolto anch'io, forte 9.25, a Puglia. Ok, già, ci sei ancora? Sì, sono qua. Andave. Sì, ma sto per rientrare a casa e devo farmi il pranzo. Adesso vado a prendere mio figlio e poi torno a casa, dai. Vabbè, aspetto un altro po', che si deve cambiare e poi vado a prendere. Vai a 140 grammi, se non hai voglia di cucinare, con 12 euro ti fa un bel primo, te la regga a casa, passa le cozze al coso. Io molte volte quando sono in fretta vado di lì, 10 minuti, telefono e te lo preparano, ed è buona la roba. Dove, Roberto? A 140 grammi, ti dai i primi già pronti, ma abbondanti, ci mangiano due persone bene, per dire, spaghetti alle cozze, carbonara, vabbè io mi piglio sempre cose a carbonara, te la vuoi fare pure a casa, cose un po' più complicate, come si chiama la siciliana, Maria e Monti, quello che mi prendo io è Maria e Monti, è il più buono di tutti, che c'è roba di mare e più ci sono funghi, arselle, melanzane, zucchine, ma veramente boh, con 12-13 euro ti fai un bel primo e non stai a matarti lo gabbo. Quello già è vero. Ma io oggi ho fatto le alette di pollo piccanti con sughetto piccante e non facevo altro che scaldarle. E il primo alla carbonara, già faccio in fretta, lì ci vuole niente. Gava gava. Andava, riprendi Antonio. Buongiorno ragazzi. Buongiorno a te, buongiorno. E chi su? Chi su bruciami? Chi è? Buonasera. Chi è avanti? Mi arrivate tutti sparati da questa parte, caspita, ma cosa state usando? Non so chi sei, comunque qua Roberto da questa parte, poi c'è Doppio Rumo, Gianni e Antonio Bombolo dall'altra. Ti rilascio il mic così ti presenti. Claudio Nevada da Fondo Torres. Papà Claudio, buongiorno. Addirittura la portatore, sei qua, 9 più 15 Claudio, ben sentito per la prima volta. Roberto ho guardato qua la stanza di Aldo. Pare che sei oltre 9.15. Claudio, visto che sei a Porto Torres, buongiorno, non è che mi puoi dare un controllo in questo modo, se puoi guardare lo smitter, è in questo che ho attaccato per vedere se sta fungendo la situazione, se funge la situazione, guarda Nevada. Sì Gianni, sì sicuramente, sei 9 oscillante. Si vede che stai camminando in macchina perché il segnale oscilla un pochettino da 8:30 a 9, 8:30 a 9, la radio è più che buona. Sì, ma adesso io sono... Allora, così sono staccato. Controllami il segnale, così attacco. Guarda a vedere se c'è un cambiamento. Non noto nulla, assolutamente nulla, l'ago dello smitter. Rimane sempre lì, non noto nessun miglioramento. Cava cava, andave, riprendi Roberto. Ehi, avete anche a me un controllo di Santiago e di radio, Claudio da Porto Torres. Certo, Santiago 9 spaccato in positivo. radio Super 5. Contare che io sono in barra mobile. Ma a me come mi senti lì a Porto Torres? Santiago 5 e mezzo, radio molto buona, benissimo. Scappa, sono qui in guardia dell'apparecchio, sono. Comunque pure tu sei in off qua, sei in off, radio 5, una bomba. Claudio, se posso essere indiscreto, che radio stai utilizzando e che antenna? Un mezzo a 48, un po' con qualche watt in più. E l'antenna è una Mantova 1. Ok, te la dà la grande, quasi 9 più 15, il tuo segnale qua è la radio ottima, 5 è bella chiara e forte. Io sto utilizzando un 44 della K e un'antenna Mantova 1, una decina di watt, non di più. Ma tu Roberto, non ce l'ha tu? No, c'ho anche una turbo da piazzare di scorta, me la sono tenuta se il giorno che si dovesse mai rompere, quella là ce n'è una di scorta. Ah, io mi ricordavo che c'avevi la turbo che avevi avuto dei problemi quando l'hai comprata. Ah, non l'hai piazzata pure? No, il problema l'ho avuto con la Mantova 1 io. Come si chiama? L'ho sistemato, ho fatto quello che dovevo fare, ribobinata, messo il PL, fatto con un PL serio, non con quella cagata che c'è originale, e sto sempre andando con quella. Cava, già va bene. Cappa, ecco qua. Claudio Nevada, mi senti da Porto Torres? Sì, sei quasi senti adesso. Vabbè, io sono un pochettino, come si dice, un pochettino, non capisco perché, sono una zona un pochettino negativa, forse anche per zona, perché sono in zona bassa, però già va bene, dai. Le prendo io. Comunque, la Mantova 1, mi sa che tra un po' la butto giù perché no, troppo rumorosa, mi sta tirando troppo rumore, troppo, mi sta dando troppo fastidio. E mi sa che me ne faccio fare una da Lucca, di quelle canne da pesca, quelle sono silenziose, vanno benissimo. E mi sa proprio di sì. Come si sistema un po' il Natale qui fuori, me la faccio fare. Comunque deve essere una zona aperta tu Claudio di Porto Torres, perché qua arrivi molto forte, molto più di altra gente di Porto Torres. Che zona sei tu? Zona Faro. Dove sei il Faro di Porto Torres? Io sono in linea d'aria, sono 60 metri vicino al Faro di Porto Torres. Ho capito, ma l'antenna molto in alto ce l'hai tu? La palazzina è quasi 12 metri. Poi ho un palo da un pollice e mezzo, da 6 metri, e sopra ci sarà Mantova. Sono libero? No, allora, complimenti, no, stai andando alla grande. Qua, probabilmente un segnale così forte non l'ho mai sentito io da Porto Torres, di questa intensità. Non so cosa gli stai dando sotto, però, visto che mi ascolti anche tu, Santiago di Nove, per cui c'è anche una buona ricezione, oltre che dare potenza, perché è inutile avere 2 kW e poi magari ricevi Santiago 3 gli altri segnali. Mi stai ricevendo bene, per cui irradia e riceve bene pure con l'antenna. No, la Mantova, come hai detto tu, un po' rumorosa, però è un'antenna a livello di dimensioni, poche ce ne sono che riescono a dargli fastidio. Non so che la Game Master se riesce ad andare un po' meglio, magari un po' più silenziosa, ma è in lunga gittata, non so se ha le stesse prestazioni della Mantova. Buongiorno. Buongiorno. Ciao già. Scusa, vabbè. Pronto, se mi copi? Sicuramente sì, quasi Santiago c'è. Ti ringrazio, tu non trovo Zacca da questa parte, avanti Roberto. Ciao Tony, ben sentito, dai, avanti Antonio e poi Gianni. Buonasera Tonino, buonasera. Quasi il mio stesso segnale c'è Tony. Bisogna vedere poi. Ma vabbè che io sono un pochettino negativo, perché sono in un punto strano, sono. Magari arrivo più forte nella zona di su che nella zona di giù. Ho sempre avuto questa negatività perché sono qui in mezzo a un fosso. Però già mi faccio sentire lo stesso, dai. Perché cambia l'antenna, voglio vedere se mi siete meglio. Dipendete. Fai. Gianni, ma ancora in macchina sei tu? Gianni? Ehi, sono andato in macchina. Ok, dimmi un po', invece Claudio, il microfonia la stai utilizzando tu? Io ho un microfono normale con la capsula ceramica cambiata. Cannonata, eh. Ma guarda qua, sicuramente copia adesso. Sei quasi 8,5-9, oscilli 8,5-9. Ma vedi allora il migliore a tu. Vado anche molto più forte il segnale. Non appena sto usando quella nuova che puntate. Davvero? Eia. Che cosa è? Mantova 1. Le migliori sono. Le migliori qua. Che l'ho trovata tu lì la Mantova 1? Bologna. Ma nuova? No, usata da un CB. Ah, ho capito. No, pensavo che l'avessi presa nuova, perché nuova l'ho cercata anche io, non ne ho trovata. No, si trova già. A me hai detto Tony? Io. Cos'hai detto? Non ho capito. Come ti sto arrivando? Meglio di prima? Già lo grido, 9.25, c'hai cioè più o meno il sogno di Antonio, vabbè. Sono le migliori che ci siano in circolazione, secondo me. E io dalla macchina, Tonino, come ti arrivo? Cazzo, 9.25. Aspetta, voglio vedere se aumenta con te. Mi fermo 5 minuti, che voglio vedere una cosa. Guarda se segnale. Bene. Guardalo così. C'avevo il fischio adesso. Mi sto avvicinando col microfono all'apparato per quello. Guarda adesso il segnale. Sì, in mezzo 3930. Cavagava. Ma che zona sei già? Sassari 2. Già sei sparato, sei fortissimo, sei. Io sei vicino a me. Io sono il più piccolino sempre, che è? 9.25 giù, vabbè. Addirittura? Sì, sì. Ma non so, io come ti sto arrivando lì. Adesso con la mano, ma che è attaccato. Cos'è la tua? Passato, mi siete sopravvolati. Roberto, qui sei più forte. Probabilmente ci abbiamo le antenne che si vedono, perché pensavo arrivasse molto più forte di me Tonino io, sicuramente, perché lui c'ha una bella posizione, probabilmente noi siamo aperti, molto aperti per quel passaggio. Io sono un po' negativo a quel porto Torres, capito? E anche troppo che arrivo così. Scappa, però già va bene, dai. Beh, 7.30 il porto Torres, vai, buono, ultimo, per dove sono io. Io non sono a Sassari, quindi. Come ti arrivo, Claudio? In due avete parlato. Ma ti arrivo di me, non vero? Vabbè, non fa niente. Che conta l'antenna, amico? Se c'è una buona antenna, una buona posizione, fa molto più danno di avere più potenza. La parità di potenza, l'antenna che conta. Vabbè, manca la posizione, l'antenna va quasi bene, guarda. Ma tu sei una nuova grande, hai avuto tu dei miglioramenti rispetto a dove eri prima, ogni volta mi ha tuffato per riceverti a te, perché eri sempre meno di 9, molte volte la radio era bassa, adesso arrivi a bomboletta, uno dei più forti. Infatti io sono, dalla parte tua sono il più, come si dice, il più favorevole che da Tonino, capito? Cioè magari da Tonino sono meno favorevole di te. Potrebbe essere, perché non sono mai riuscito a capire perché nella zona bassa ho meno della zona più alta, non so come riuscire a comprenderlo. Infatti, ma c'è anche un discorso, c'è quello di Usilo, che Claudio è molto più in alto di me, eppure più vicino a Usilo, quel tipo come si chiama? Francesco Uranio arriva più forte a me che a Claudio, e sembra un controsenso, perché lui è molto più vicino, molto diciamo, in aria saremo a 500 metri, però lui è più alto di me, io dicevo che Usilo dovrebbe arrivare, invece no, è arrivato più forte a me quello Uranio, di 5 punti, a lui per dire 9.15 a me 9.20. Non lo so il perché. Claudio, il segnale che c'ha questo Claudio di Porto Torres, non l'ho mai ricevuto io un segnale così forte, ma non è dire tanto ricevere, perché arrivare basta metti potenza, li metti un kilowatt, a vedere se arrivi, però mi sta ricevendo forte anche lui, probabilmente abbiamo le antenne che si vedono. Che sicuro sì, che sicuro sì, o è molto, lei cioè, è aperto, cioè, io no, la verità no, non sono aperto, la verità no. No. Un attimo, dai, io sto chiudendo, vi saluto tutti cordialmente, vado a pranzo, dai. Ci sentiamo alle prossime, ciao. Buon pranzo. Grazie. Ciao già, buon pranzo, buon pranzo. Avanti Claudio a Porto Torres. Sì, io Come essere libero, sono libero, sino verso l'Imbara, verso Castelsardo, l'Isola Rossa. E ti inchino non tanto, siamo un po' offuscato da quella parte lì. E ho ricevuto qualcuno da Villanova Montaleone. Una volta l'ho sentito abbastanza bene, un paio di volte poi è sparito il tipo, no? Da muro sento qualcuno, bacino, e come si chiama, Fiodoro Ginizio mi sembra, la roba del genere. Lo sento un po' bacino, però già lo sento. E un altro vicino a Olbia, Felti, anche lui già lo sento qualche volta. Ok, beh signore, anch'io devo andare via, devo andare a mangiare, saluto di nuovo a tutti, ciao Gianni, anche a te buon pranzo, ciao Claudio per la prima volta ascoltato, speriamo di risentirci in altre occasioni, ciao Antonio, ciao Tonino, buon proseguo a tutti, dai, buona proseguimento di serata, ciao, io vado. Ciao Roberto, buon cuore, buon carica, ci sentiamo. Avanti per i salutoni. Ciao Roberto, ce la risentiamo alle prossimine. Tanto, dimmi. Perché hai attaccato? Un pochettino a far andare, che era un pochettino di tempo fermo. Questo qua. Vedi che me ne accorgo quando attacchi, io sono liscio. E capo, già lo so, già. Vabbè, c'è qualcuno più lontano, ho voluto un pochettino fare la prova, va. Capo, scusate, devo fare un piccolo annuncio. Tanti saluti Battisio da parte Torino Kawasaki e buona guarigione. Una stretta mano, un abbraccio. Cap, anche da parte mia, se qualcuno glielo riferisce, anche da parte mia. L'ho saputo. Cavolo, mi dispiace un sacco, mi dispiace. Basta, saluti e basta, non si dice altro. Buona guarigione e Sì. Buona guarigione da parte mia. Ok. Ragazzi, io dico ragazzi sì perché io sono vecchietto. Dai, vi saluto, devo fare preparami di carica che anch'io mangio. Vi saluto cordialmente, ciao amico, come ti chiamo quelle parottose che non ricordo? Claudio, guarda che sono vecchietto anch'io. Sono vecchietto anch'io, mi chiamo Claudio. Ok Claudio, mi ha fatto piacere sentirti, dai. Io non mi nascondo gli anni, ho 66 anni, altro non sono di pensione. Pochi mesi ancora all'alba. Ok dai, buon proseguo e buon carico quando lo farete. Ci sentiamo le prossime, statevi bene, ciao a tutti, cuore tengo la parte mia, ciao. Ma ciao Tony, ce la risentiamo, alle prossimine. Ciao, alle prossime. Comunque se vuoi dare retta la mandava uno, non la togliere qua, perché non ce n'è. Ma io preferivo la Tissa 2000 Gold, che purtroppo non si trova più e l'avevo tolta per sbaglio e me ne sono pentito, l'avevo data. L'ho cercata dappertutto, anche in Germania, ma non si trova più. Quella era un'antenna con la A maiuscola proprio. Non si trova più, purtroppo. E com'era fatta? Tipo la Mantova 1 era fatta? No, c'aveva molti radiali, mi sembra che erano... almeno 8 ne aveva, sì. Almeno 8 radiali, poi c'aveva la carica e dentro un vetro, una specie di bicchiere di vetro grande, c'aveva la carica dentro. E poi era dorata, perché era me, io c'avevo la Gold. Ho capito, tipo la Firenze 1 di una volta era. Sì, più o meno siamo lì. Con quell'antenna lì ho fatto dei 10 a lunga gittata, no? Sparava veramente bene, poi accordava anche in altre bande benissimo e ho fatto una grossa stupidaggine, l'avevo tolta perché magari volevo cambiare, pensavo di cambiare in meglio, invece poi zappa. Beh, non te la potevi conservare in cantina, da qualche parte, c'è la lampada. No, c'avevo un amico appresso e mi si è attaccato come la zecca. Dammela a me, intanto tu mi hai preso una nuova e alla fine ho detto tu portatela via, corri. Guarda che comunque quella la Mantova 1 è ricercatissima, soprattutto perché è buona, è la verità. Le altre, se prendi altre antenne ti si spaccano. La Mantova 1 no, non ce n'è per nessuno, va, la verità, ti dico. Sì, ma è un po' di tempo fa avevo piazzato una Master Game. Quella originale, però qui sono fronte mare, ha tentato di spezzarsi un paio di volte, piegava troppo e prima che scendeva giù in mezzo alle macchine posteggiate qualche pezzo l'ho smontata e ho procurato questa Mantova 1 lì da un amico lì di Sassari, me l'ha procurata. Era nuova, ma sì, dammela. E tranquillo, vai, che quella lì è meglio, la Mantova 1. No, non è buone. La Game Master, soprattutto in posti così ti si tronca, No, non è fa danno, con quella lì sei a posto, dormi sogni tranquilli. Anche perché è un'antenna molto, molto, molto robusta e ti dà pochi problemi. Sì, quello sì, ho visto che ha tenuto qualsiasi vento, anche quei fortunali che ha fatto da poco, qui io sono proprio fronte mare, sono sul porto, si può dire, ma non gli fa nulla, non si piega neanche, è lì tranquilla, no? Niente, ho solo messo qualche tirante al palo di 6 metri, ma l'antenna è tranquillissima. Spero che l'abbi tutta ingrassata, perché lì tira aria di mare. Vai tranquillo, va. Hai fatto. Io non ne avrei messo altro di antenne, avrei lasciato quella. Ma se l'avrei messa, vicino. Perché lì è un pozzo, un po' l'onfio. Ma ci vuole un'antenna anche che sia buona, che resista. La Mantova 1 è la scelta migliore. Questo è il mio parere. Sì. Ne devo mettere un'altra che ce l'ho qua e dopo Natale la metterò su. Più che altro mi serve per ricevere un po' in tutte le HS. È un po' più lunga, sui 9 metri, una bella antenna fatta bene. Per ricevere va benissimo, tanto di fuori non ne posso mettere, non ho spazio, quindi me ne sono andato su una bella canna da pesce, la pianterò appena possibile. Fatto. Io sono con la cosa, non so se la conosci, la Ringo la conosci, però è un modello vecchio ciò. E caspita se la conosco, l'ho avuta anch'io. La Ringo è un'antenna storica, insomma, e chi è che non l'ha avuta? Io mi ricordo ai tempi d'oro, qui ce n'erano tante in giro, è un'antenna che senza pretese è sempre andata bene, no? Non è nulla di eccezionale, però il suo lavoro lo fa benissimo e va abbastanza bene. Ma allora io ne ho avuto due, ne ho portato una che mi ha dato un po' di fastidi, il nuovo modello, mi si è staccato il rivetto, se la devo aggiustare poi la metterò a posto. Poi mio padre mi ha dato questa, era nuova, ancora in busta, mi ha dato, però il modello vecchio, quella a viti, quella dove c'entrano le viti, e con questa ti dirò che sono veramente soddisfatto, ma veramente soddisfatto. No, già andavano bene, andavano benissimo. qui che è nella Terra Maggiore, sì, la Mantova, Mantova 1, Mantova 2, la Turbo, quella con un po' più di radiare in più. Però io rispetto agli altri con la Sirtel avevo qualcuna marcia in più, forse non so, vuoi per la posizione, vuoi perché ero più libero, vuoi, avevo una marcia in più. Non lo so, non l'ho mai provata, non lo so, ho mandato questa, sono soddisfatto, la verità, parlo un po' dappertutto. Non ho problemi, sono soddisfattissimo, sono. Va bene, intanto altre antenne no, per il momento non voglio montare nulla. No, ma anch'io per adesso sono a posto, dovrò mettere solo quella là e basta, no? C'è l'altra per lo scanner, della Comet che va benissimo, che quella lì regge molto bene il vento. E basta, non ne metterò più, no. Volevo fare un bipolo, ma no, non si sa, non va bene, no. E rimango così. Va bene. Ti saluto, vado a mangiare che mi hanno chiamato. Per l'una passata mi sento. E mia moglie che sta trillando sopra. Quindi ti saluto, ti risentiamo alle prossime e fai buon pranzo quando lo farai anche tu. Ciao, ciao. Ma no, io ho già fatto, dai. Buon pranzo, dai, ce la risentiamo alle prossime, ok? Antonio da Sassari ti saluta, ce la risentiamo, ciao, ciao. Ciao Antonio, ciao. Un po' di gente, mi è entrato pure Claudio da Porto Torres. Ah, Claudio è tuo mio. Attento Claudio. Oh, arriva bene qua, Mi arriva quanto segnale è tuo, ma... Allora, quanto arrivi tu liscio? 9 più 10. È una cannonata qua. Mia, adesso sono con 4 watt, sono. Cavolo, veramente bene, bene, bene qua, Vabbè, c'è un'ottima posizione, lui abita in zona molto molto alta, produttore, e di fronte a me lo vedo io l'acqua, fatti conto, proprio lo vedo, perché abita dove il faro, capito? Pronto, lui abita dove c'è il faro, capito? Quello che praticamente segnala tutto il mare, la zona più alta di Porto Torres, bellissima, 9 più 10 arriva qua. Ah, sì, no, la verità, arriva molto molto molto bene, io adesso sto uscendo pochi watt, un alimentatore, quello piccolo, quello più piccolo, perché tanto no, è staccato quello switching, cavolo, ah comunque, cavolo, complimenti, dice che c'è la Mantova 1, ciao. Sì, ma adesso un periodo che è un po' incasinato, appena arriva il tempo bello, penso verso marzo, insomma, la primavera, scendo a Porto Torres, a Romano, facciamo un bellissimo impianto lì da Claudio, io ho già promesso, vado io e Romano facciamo un bel impianto, e c'è insomma delle radio spettacolari, c'è delle radio, e poi c'è una bella zona, quindi voglio che esca bene, e gli arrivo segnale di Porto Torres, io così, come sono adesso, gli arrivo 9 più 10. Va bene, va bene, campa di rosmetro. Ok Antonio, già ho messo l'acqua io, fra 2 minuti butto la pasta e prendiamo, siamo io e mia moglie, mia figlia esce alle 3, ha voluto aprire stamattina, vediamo un po' cosa tira fuori. Già travaglia, ho visto l'altro giorno, sono passato e c'era un bel po' di gente, già lavora. Lo so, Anto, lavora, ma lavora e lavora la verità, non mi posso lamentare perché anche lei non si lamenta, poverina, però sono queste restrizioni che la stanno danneggiando, capito? Sono in 4, Anto, sono in 4, devono tirare fuori 4 stipendi, quindi è molto pesante in questa situazione qua, credimi, come un fratello, veramente, te lo dico col cuore in mano, è molto molto molto difficile, però insomma si stanno salvando e questo è importante, capito? importante, infatti ho voluto aprire oggi, ancora non mi ha chiamato, quindi penso che stia andando bene. Chiudevo insomma le 3, insomma le 3, 4, finito insomma il tram tram, e poi il problema è dal 24 al 7, dal 24 al 6, capito? A me mi girano le palle queste cose. Cavolo, ma non pensano a Ghizzi? Ghizzi quando lo arrivi da bolletta sono zocchini. Quando gli arrivano tutte le cose da pagare sono zocchini. Cioè, ma cazzo, ma non ci pensa questa cazzo di gente, scusa. Cioè, sono veramente incavolato, sono. Cioè, ma questa gente non ci pensa che anche questi cazzano di tirare avanti. Ma ne ha tutti nulla, veramente ignoranza pura. Cioè, tanto loro già sono lì, ogni 27 già si bignano di là, quindi invece devono travagliare, devono. Cioè, ma però ignoranti, veramente, siamo intornati da gente ignorante. Cioè, cavolo, guarda che difficile mi tirare su un locale, cazzo arrivi già la bolletta, cazzo mi danno già 1.000 euro di cosa, attendendo che si frigoriferi, la macchina, e tutto. Cazzo, leva, cazzo le tasse mondezza, Dio mio santo, per un locale pubblico, lo sappiamo come sono, ma non fa niente, non vi pensa, cioè no veramente va, sono veramente indignato di certe persone. Bravo tu, mi fa piacere che pensi a queste cose, è veramente tanto lo devono dividere in quattro, devono fare tutto per quattro, capito? E credimi che si sta tirando avanti, però non c'è niente da poter sorridere, credimi, non c'è niente da poter sorridere, però si sta tirando avanti, stanno pagando, stanno facendo, l'unica cosa che hanno gratis, nel senso che non pagano il solo pubblico, capito? E basta, per il resto stanno pagando tutto altrove, le entrate sono quelle, c'è poco margine perché c'è poco orario di lavoro, capito? C'è poco orario di lavoro, in aria a me i conti me li fa vedere, non è un problema, tu conosci Enzo, cioè gli altri tre sono tutti e tre giovani, sono fidanzati, non hanno famiglia, vivono a casa dei genitori, ma Enzo, quello che a te ti ha fatto la colazione, quello c'ha due figli, mia tu, capito? Deve campare la famiglia, fortunatamente la moglie lavora, però deve campare la famiglia, e quindi cioè, i discorsi sono quelli, capito? Che da lì devono uscire quattro stipendi, cioè quattro stipendi che devono essere buoni, devono essere equi. In questo momento si tira la baracca e boh, capito? Si tira solo la baracca e basta, però diciamo che speriamo bene, poi a gennaio si vedrà se tutto procede bene, perché hanno un contratto, quindi devono vedere e stabilire che cosa possono fare nel nuovo anno, se andare avanti o mulla tutto. Questi sono i discorsi, Antonio, papale, non ho nessun problema, capito? Antonio, ti lascio che sta bollendo l'acqua, ci sentiamo dopo? Sì, dai, ci sentiamo dopo, io sono rimasto a tre, no, mi pare una tre entro di migliore. Ok, dai. Ci sentiamo dopo. Detto bene, mi hai fregato, sì, ne ha tre, quindi immaginati tu. Ne ha tre, c'ha tre figli, quindi. Si scappa, dai. Vai, fatti la pasta, vai. Se no non mangi più. Oh, veramente, tu che ci chiede la bagarra, cazzo, cioè, indignato, veramente indignato. Non ne ha putti nulla e sa niente. Vai, non c'è problema. Ehi, a dopo, ciao.